Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio dalla postazione di Montecitorio di Radio 24, da Vincenzo Miglietta e da Elisabetta Fiorito. Una giornata essenzialmente questa di fumate nere qui alla Camera, una al Senato, già due a Montecitorio. Ma perché quest'esito del voto? Perché il Partito Democratico, lo ricordiamo, ha deciso di votare scheda bianca per aspettare un'eventuale intesa con il Movimento 5 Stelle, che continua però a dire no ad un accordo. Elisabetta. Sì, proprio così, Vincenzo, diciamo che sono molto fissi nelle loro posizioni, non retrocedono, votano per i loro candidati, Roberto Fico alla Camera e al Senato Luis Alberto Orellana. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato il presidente dei deputati 5 Stelle, Roberta Lombardi. Questa giornata si sta rivelando uno spreco di denaro pubblico assurdo, perché una votazione del genere, che è importantissima perché comunque è la votazione di una delle più importanti cariche istituzionali del Paese, con un metodo normale si potrebbe effettuare in una mezz'ora, quindi senza dover assistere a tutti questi riti della discesa dei parlamentari, con un voto elettronico, candidati, questa lista di nomi, votate, mezz'ora, giochi fatti. E poi le persone che sono profumatamente pagate dai contribuenti potrebbero dedicarsi ad attività più interessanti per il Paese. Perché avete scelto Fico come candidato? Perché è quello che al gruppo parlamentare, per sua storia, per sua indole, per suo profilo, piace di più, e quindi è stato votato dalla maggioranza di noi. Lei vorrà quindi che ci sia un voto elettronico anche per la fiducia o per, che ne so, scegliere i giudici della Consulta? Piacerebbe un voto rapido per tutto, in modo che si vota rapidamente e si torna a lavorare sulle cose concrete, perché queste sono figure istituzionali e passaggi istituzionali che devono essere fatti, ma non si può perdere un giorno e mezzo di lavoro per una cosa del genere. Bisogna essere più rapidi, perché il Paese ha fretta di uscire dal baratro. Noi cittadini abbiamo fretta di riuscire ad attuare un progetto di Paese nuovo che ci tenga finalmente al centro della scena. E allora non converrebbe fare un accordo con il PD a questo punto, così almeno in fretta fate uscire il Paese dal baratro? Se si deve ritornare alle elezioni non è più lunga. Ma noi abbiamo detto in fretta, ma con cognizione di causa. Cioè, uno ha detto, e sapete esattamente noi chi siamo, l'ha detto in tutta la campagna elettorale, chi ci ha votato sapeva esattamente quale impegno ci prendevamo, cioè di non fare accordi con i partiti. Il PD invece ha scelto comunque una linea attendista, l'ha confermato il segretario Pierluigi Bersani. Ma sì, si cerca fino all'ultimo di trovare un'intesa, come è giusto, perché sui temi istituzionali bisogna sapere che le istituzioni non sono di nessuno e non si può dire prendere o lasciare. Dopodiché naturalmente domani si decide, domani ci sarà il Presidente di Camera e Senato. Ci sono comunque critiche al Movimento 5 Stelle. Abbiamo avvicinato stamattina Bruno Tabacci di Centro Democratico, una lista associata al PD, che è stato molto critico nei confronti dei grillini. Il risultato elettorale è stato estremamente chiaro. Nel Parlamento italiano ci sono tre minoranze che hanno una consistenza diversa, ma hanno il potere di bloccare. Se questo punto resta in campo e non viene smontato, è evidente che le prospettive di dare un governo stabile al Paese si riducono. È evidente che, poiché una delle prime incombenze è l'elezione del nuovo capo dello Stato, forse sarà da lì che partirà il confronto vero, perché non credo che il Presidente della Repubblica attuale, che a fine mandato, abbia tutti gli strumenti di moral suasion che sono necessari per forzare un po' le mani in una situazione come questa. Quindi ecco, non ci dovremmo stupire qualora fosse eletto poi a sorpresa un candidato di Grillo, che a quel punto avrebbe ricevuto anche i vostri voti? Non credo proprio che le cose vengano così. Non mi pare che le cose stiano in questi termini. Grillo, quindi una sua previsione quale può essere? La mia previsione è che comunque se Grillo pensa di votare i suoi da una parte e dall'altra senza accedere ad un'intesa istituzionale, i suoi candidati non saranno eletti, questa è la mia previsione. Se invece accede ad un accordo che finora ha negato e che deve essere fatto alla luce del sole, non è che lui dice allora qui io voto il mio e al Senato voto il mio, ho capito, e io perché dovrei convergere? Ed è critico anche il PDL, ma non nei confronti dei grillini, nei confronti del Partito Democratico. Angelino Alfano sprona Pierluigi Bersani a lasciare stare Grillo, sentiamo il segretario PDL. Ci pare che il Partito Democratico sia ormai arrivato all'accanimento terapeutico, ancora un giorno di paralisi parlamentare per ottenere altri no da grillo. Speriamo che domani, con senso di responsabilità, il Partito Democratico prenda atto che le istituzioni hanno bisogno di una guida e il governo del Paese deve dare delle risposte alla crisi economica. Il Partito Democratico sta completamente dimenticando la crisi economica e si sta avvitando in una vicenda tutta interna. Speriamo recuperi un barlume di responsabilità, tenendo conto della responsabilità che anche nei giorni dopo il voto invece ha manifestato il presidente Berlusconi. La via d'uscita è quella della governabilità e della responsabilità, del dare un governo a questo paese. Non si può vivere in una condizione di questa difficoltà e di crisi economica con un paese senza governo. Ci sono un po' dei malumori, eh? Tu hai per caso portato un apriscatolo, sei stato tu a metterlo in aula alla Camera? No, non me l'avrebbero fatto passare. Perché il Movimento 5 Stelle ha messo questo apriscatolo perché Grillo ha detto apriremo questi palazzi come se fossero delle scatole. Poi però, insomma, io per esempio ho inseguito Roberto Fico per tutto il Montecitorio per chiedergli se ci concedeva un'intervista a Radio 24 e una deputata ha risposto per lui dicendo è tutto sul suo blog. Vorrei ricordare che generalmente in democrazia i giornalisti fanno le domande, i politici rispondono, altrimenti è un po' una comunicazione aziendale anche questo fatto di fare tutto in streaming, Vincenzo. Assolutamente, devo dire che in effetti sono diverse le originalità che possiamo vedere nel Movimento 5 Stelle. Possiamo ascoltare il neosenatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle, attento in particolar modo proprio ai costi del palazzo. Fantastiche, cioè veramente c'è un'aria istituzionale e quindi quello che ho sentito e con piacere ho visto che tutto il gruppo 5 Stelle ha avuto la stessa impressione, un grande, grandissimo rispetto delle istituzioni. Ho dovuto un paio di volte richiamare l'attenzione del Presidente per far zittire un po' i dinosauri della politica perché insomma si alzavano, parlavano tra loro mentre si stava svolgendo un'importante operazione istituzionale. Senta, la scelta di dove mettersi seduti? Come è nata? Ma in pratica noi volevamo metterci dietro, in modo tale che se vedevamo qualcosa che non andava bene potevamo dare lo scalpellotto, come disse Beppe. Quindi guardando la presidenza? Guardando la presidenza stiamo al centro, proprio al centro. Il centro in basso e anche un po' in alto. Esatto, l'ago della bilancia. Sì. Sobrietà dunque in questa prima seduta? Cerco comunque di, come dire, cercare comunque atteggiamenti sobri anche nel mangiare, anche nel bicchiere che adesso tengo in mano senza buttarlo, in modo tale che me lo conservo per bere. Quanto alla buvette, come si è trovato? Ma allora, ieri ho preso soltanto della frutta, i prezzi sono normali e quindi questo è molto importante. Oggi invece ho preso soltanto un secondo, anche in questo caso il prezzo è normale, quindi anche un altro messaggio che so che è stato fatto proprio in occasione del nostro ingresso. Ma questo non è del tutto vero perché i prezzi non sono variati, quindi dovremmo dire al senatore Puglia. Li avevano alzati prima, molto prima della fine della legislatura. Devo dire che io, per esempio, non abbiamo tempo, ma ho intervistato Rosaria Scopelliti del PDL, figlia del magistrato ucciso dalla mafia, e quello che le interessa non è tanto andare a vedere se un panino costa mezzo euro in più, ma combattere contro la criminalità organizzata per far sì che la legalità prevalga nel suo territorio, la Calabria. Poi so che tu hai sentito invece un leghista. Sì, anche la Lega, ricordiamo, ha votato a scheda bianca. La Lega ricorda e promette ai propri elettori che non ci saranno inciuci qui in Parlamento. Domani le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, sembra oramai tutto pronto. E chi saranno non lo sappiamo, ma ve lo diremo. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.